Investire informati. Investire informati, sono ancora un po' ubriaca. Investite informati, quindi. Esatto, va bene? Andava bene anche quello, vedi, certo. Che non è stato un refuso così non pertinente. Allora, ancora una volta, oggi dobbiamo dedicarci un po' all'universo mondo banche, perché le notizie che riguardano questi istituti di credito italiano sono sempre tante. Allora, tanto per cominciare, vi ricordo che da oggi il decreto legge sulle banche sbarca l'esame dell'Aula del Senato. La Commissione Finanze ha chiuso le votazioni sugli emendamenti in seduta notturna, proprio con un rush finale, che è provocato anche dalla chiusura di Palazzo Madama per tutta la prossima settimana a causa ballottaggi. Probabile che poi il testo passi con il voto di fiducia. E c'è stata ieri una notizia importante, perché c'è stata l'apertura del governo su due emendamenti, che sono stati poi entrambi approvati, che avranno come conseguenza una estensione della platea degli obbligazionisti delle quattro banche in default che potranno accedere al famoso rimborso di cui abbiamo parlato tante volte, con un tetto fissato all'80% dell'investimento, a patto che il risparmiatore abbia un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro, reddito personale lordo non superiore a 35.000 euro. Se oggi il tutto passa appunto al Senato, naturalmente al più presto vi rifaremo anche su questo argomento un punto della situazione. Ma perché oggi parliamo di banche? Perché, come sapete, sono in corso due importanti aumenti di capitale, e quindi sono operazioni che riguardano molti azionisti di queste banche. Una è Veneto Banca, l'altra è il Banco Popolare. Sono due banche che vivono delle situazioni diverse, ma che hanno necessità di ricapitalizzarsi per 1 miliardo di euro. Come stanno andando queste operazioni ovviamente non lo sappiamo, lo sapremo solo al termine dell'operazione appunto straordinaria sul capitale, ma volevamo fare un punto della situazione anche per così, se possibile, fare un po' di chiarezza per quei risparmiatori interessati, che sono magari azionisti di queste banche, una è quotata, una ambisce alla quotazione, e quindi se hanno bisogno di informazioni per capire quali sono le condizioni dell'operazione, non hanno ancora ben capito come fare una, come dire, valutazione di opportunità all'adesione all'aumento di capitale, abbiamo chiesto aiuto ad un amico quest'oggi, Salvatore Gazziano, responsabile strategie di investimento di Soldi Expert, consulente finanziario indipendente, che salutiamo. Salvatore, buongiorno, ben ritrovato, eccoci a noi. Grazie. Allora, ti faccio un po' la domanda, quella classica della professoressa quando vuole mettere a suo agio l'interrogato. Mi parli di quello che vuole. Esatto, uno viene... il tema piacere, nel senso, vuoi cominciare con la situazione del Banco Popolare o di Veneto Banca? Parliamo di quella un po' più proriginosa, di magari da Banco Popolare? Sì, diciamo che Banco Popolare è una banca che fa parte di un gruppo che nel corso degli anni, diciamo, si è contraddistinto per una serie di acquisizioni, fusioni, partendo dalla Verona, poi passando alla Novara, poi il gruppo Italiv, insomma è una banca che è molto cresciuta. Ha avuto delle vicende alterne, esatto. Oggi vuole andare a sposarsi con la Banca Popolare di Milano. Ecco. Esatto, una serie di matrimoni infiniti che ha trovato in una donna, proprio nel capo della supervisione bancaria, un punto di scontro di fatto, perché il disco verde da parte della Banca Centrale Europea è avvenuto, sì, ma nonostante, diciamo, i vertici di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano avevano giurato e promesso che mai si sarebbero uniti dovendo sottostare a un ulteriore aumento di capitale, di fatto la BCE ha chiesto che questa operazione fosse accompagnata da un aumento di capitale di almeno 1 miliardo di euro di Banco Popolare, e ha dovuto, da questo punto di vista, il vertice del Banco Popolare rimangiarsi un po' come Crocker Duck la tuba e accettare questa operazione, che naturalmente al mercato non è molto piaciuta. No, anche perché, come al solito, si deve fare un sconto molto importante delle azioni di nuova emissione, altrimenti gli azionisti nuovi potenziali non aderiscono, appunto non sottoscrivono, no, l'operazione. Esatto, questa operazione, diciamo, è stata poi accompagnata nelle ultime settimane da una pressione anche al ribasso, perché evidentemente si parla di banche che in corso di questi anni hanno visto le azioni già molto scendere, in più diverse volte sono stati richiesti soldi agli azionisti promettendo piani industriali che avrebbero moltiplicato utili e dividendi, ma spesso questo non è accaduto, e quindi il titolo Banco Popolare, diciamo, da inizio anno è stato tra i peggiori di Piazza Affari, arrivando a perdere circa il 65-70%, sì, esatto. E adesso, diciamo, da poco pochi giorni è partita questa operazione di aumento di capitale che probabilmente c'è da sperare che il ribasso maggiore l'abbia fatto nel passato per gli azionisti di questa banca, perché il titolo tutto sommato, contrariamente ad altri aumenti di capitale che dal primo giorno di trattazione di diritti vedevano il titolo ulteriormente precipitare, questa volta il titolo tutto sommato sta reagendo bene, anche se ricordiamo che ha perso più del 60% esatto. dall'inizio anno, e le quotazioni in questi giorni si sono mantenute intorno al 3,10-3,20. Esatto, 3,14 in questo momento vale il titolo in borsa, Salvatore, e volevo appunto spiegare ai nostri ascoltatori che invece le azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione che è stato fissato dalla banca è di 2,14 euro. Allora, come funzionerà per chi è già socio della banca, della banca quotata? Perché leggo dalle condizioni che praticamente agli azionisti che hanno diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale verranno proposte 9 nuove azioni ogni 7 titoli posseduti. Esatto, sì, diciamo che nel corso degli anni chi è che come me ha iniziato a affrontare la borsa, negli anni 70-80 era molto più facile, si diceva hai un certo numero di azioni e ne hai altre che potrai sottoscrivere. Oggi i rapporti sono diventati sempre più complicati, c'è una ragione anche tecnica per questo, quindi di fatto occorre fare una serie di operazioni matematiche di divisione e moltiplicazione. Imparare la matematica e i numeri è molto importante anche per i nostri figli, anche per sottoscrivere un giorno gli aumenti di capitali delle banche, stiamo scoprendo. E ma secondo te, per dare un'indicazione pratica ad un risparmiatore, che cosa deve fare? Cosa deve andare a, in che termini deve documentarsi per capire se questa operazione gli conviene o meno? Ma diciamo che la convenienza purtroppo oramai della parte di questi aumenti di capitale delle banche è quasi una scelta: o continui con noi a stare sulla carrozza, o quello che hai investito nella banca hai perso, non dico tutto, ma una buona parte, perché sono state spesso operazioni dilutive. E quindi qua, da questo punto di vista, diciamo, noi come società di consulenza da tempo consigliamo di star fuori dal settore bancario italiano, perché non ci sembra che ci siano ancora le condizioni per un pronto rilancio. E dal punto di vista del risparmiatore, valutare se quanto è investito in questo settore è una quota già congrua, perché aumentarlo ulteriormente in uno scenario come quello che stiamo vivendo ci sembra comunque una scommessa abbastanza rischiosa, come peraltro anche il prospetto informativo a leggere tutti i rischi di queste operazioni non è che si comprende facilmente che queste banche facilmente torneranno a realizzare tutto quello che è scritto nei piani industriali in maniera così semplice. Salvatore, 2 minuti di tempo per fare un riassunto anche dell'operazione che riguarda invece Veneto Banca, magari le condizioni fondamentali le dico io: un aumento di capitale da 1 miliardo che si conclude il 20 giugno, il gruppo ha bisogno di questa ricapitalizzazione con l'obiettivo appunto a sua volta di quotarsi in borsa, ma è una banca nell'occhio del ciclone perché le sue azioni sono state, per volontà della stessa banca appunto, già per, è una banca non quotata, deprezzate fortemente nel corso degli anni, e l'operazione con cui viene fatto l'aumento di capitale è ad un prezzo veramente, non dico contenuto, ma proprio rasoterra praticamente. Salvatore? Sì, se nel caso di Banco Popolare parliamo di un'operazione a rischio medio-alto, qui come dice addirittura lo stesso direttore generale della banca Veneta, siamo a un'operazione a rischio altissimo, anzi giustamente qualcuno ha definito questo l'aumento di capitale più pazzo del mondo, poiché chi lo sottoscrive in questo momento non è nemmeno chiaro né il numero di azioni che dovrà sottoscrivere né il prezzo, e oltretutto un prospetto informativo che ieri ho dato una scorsa è praticamente equivalente all'Antico e Vecchio Testamento messi insieme, perché si parla di 1150 pagine che un risparmiatore dovrebbe leggere, di cui 150 pagine solo di rischi. È un'operazione che quindi è veramente probabilmente, ma infatti diciamo che sappiamo già che più o meno finirà come per la Popolare di Vicenza, esatto, un aumento di capitale che non ha avuto successo, e sarà tutto sottoscritto l'aumento di capitale dal fondo di stabilizzazione bancaria Atlante, e poi bisognerà vedere appunto se le condizioni per la quotazione in borsa si raggiungeranno. Salvatore? Esatto, la lettura è questa. In realtà è un'operazione che anche qui dà un segno abbastanza sinistro, in realtà anche un po' sui top bankers italiani, perché ricordiamo che solo alcuni mesi fa prima avevano detto che non c'era problema per l'aumento di Banco Popolare Vicenza che sarebbe sottoscritto, e abbiamo visto come è finito. Anche Veneto Banca dicevano la stessa cosa. In realtà poi i banchieri italiani e chi ci governa ha un'idea di come funziona il mondo un po' diciamo distonica rispetto alla realtà, o cercano di mentire in maniera abbastanza pacchiana, perché poi queste cose si vedono e diciamo segnano in maniera anche abbastanza negativa l'umore degli investitori, perché se non quello che tu dici poi si realizza mai, evidentemente la fiducia nei confronti del comparto bancario continua a scendere. E insomma, vedremo come andranno a finire queste due storie. Quello che ci dispiace è per tutti i piccoli azionisti che già detengono appunto da tempo azioni della banca, appunto ribadisco, non quotata, sottoscrizioni di azioni fatte come se fossero state delle forme di investimento assolutamente sicure, invece si sono trovati nel giro di una notte, quando la banca ha stabilito le condizioni per l'aumento di capitale, praticamente con tutto il loro risparmio polverizzato. E lì bisognerà vedere anche attraverso le vie giudiziarie come finiranno queste vicende, a prescindere poi dalla parallela vicenda vita finanziaria di Veneto Banca, che adesso sta passando attraverso l'aumento del capitale, e vedremo se ci sarà questa quotazione in borsa. Salvatore, per adesso ti salutiamo, poi vedremo come andranno avanti appunto queste telenovele bancarie. Per adesso grazie e a presto. Buona giornata. Adesso io vi racconto cosa succede oggi in borsa, dopodiché andremo invece all'altra grandissima operazione della quale si parla oggi molto su tutti i giornali. La Banca Centrale Europea è partita con l'acquisto di bond aziendali, obbligazioni societarie. Naturalmente la BCE fa questa operazione per ampliare il suo quantitative easing, questo maxi piano di acquisto sia di titoli di Stato e adesso, come vi dicevo, anche di obbligazioni societarie. Un mercato molto ampio per l'Italia, che riguarda anche i piccoli risparmiatori che spesso sottoscrivono questa forma di investimento. Ma sono davvero delle occasioni di investimento buone? Quante obbligazioni societarie dovremmo avere nel nostro portafoglio se siamo piccoli risparmiatori? A tra poco. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta. Io lo dico, ci siamo intrattenute un po', infatti. Con un grandissimo amico di Cuore e Denari. Lo vuoi salutare tu? Perché sta qua che ci sorride di soffiato. Facciamolo salutare. Avvicinati un attimo. Adesso io devo introdurre un tema un po' più spigoloso, dai. Naturalmente. Guarda, quindi rendiamolo lieto. Devo parlare di obbligazioni societarie. Non sono preparato su questa materia. Suggerisco io. Però sei lo stesso amico nostro, vedi? Vi voglio proprio bene. No? Facciamo il quizzettone se i nostri amici hanno riconosciuto la voce. Magari renditi riconoscibile con qualche tuo cavallo di battaglia tua trasmissione, che è orientata nel weekend di Radio 24. Sempre e soltanto su Radio 24, con il sound check, il suono della musica. Vabbè, ma con un'indizione così grande, l'aiutino era molto grande. Questo è un aiutone all'800240024. Grazie. Lo sbaciucchiamo dopo. Ciao. Allora, andiamo un po' invece adesso a parlare di mercati finanziari, perché appunto è giovedì e lo sapete che vi dovete sedere sul banco della nostra scuola di risparmio. I mercati azionari sono volatili, i titoli di Stato non rendono più nulla, nel davvero reale totale disorientamento dei piccoli risparmiatori, e quindi si cercano opportunità di investimento più remunerative. Anche alla luce di quello che ha cominciato a fare nelle ultime ore la Banca Centrale Europea, alcuni risparmiatori ci hanno chiesto di spiegare se in questo momento può essere una buona idea investire in obbligazioni societarie. Tanto più che sono nell'occhio del ciclone non solo per l'iniziativa della Banca Centrale Europea, ma anche per tutta la questione apertissima e spinosissima dei prospetti informativi e le polemiche che stanno interessando l'operato della Consob. Detto questo, appunto, oggi è il tema che abbiamo scelto di affrontare nella nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Salutiamo subito l'ospite con cui faremo questo veloce percorso di Cuore e Denari, Alessandro Busnelli, consulente finanziario indipendente. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Eccoci qua. Allora, nel primo giorno del via dell'operazione della Banca Centrale Europea, che dopo i titoli di Stato adesso può costare anche obbligazioni societarie, la BCE di Mario Draghi avrebbe già acquistato, lo scrive stamattina il Sole 24 Ore, obbligazioni della utility francese Engie, del gruppo automobilistico Renault, delle big delle telecomunicazioni spagnole Telefonica, della tedesca Hervé e Siemens. In Italia le indiscrezioni indicano acquisti sui bond di Telecom e di Generali. Allora, dottor Busnelli, noi faremo un punto della situazione generale su quali società emettono queste obbligazioni, con che spirito lo fanno e che attenzioni dobbiamo adottare come risparmiatori, visto che in questo mondo ci sono anche le obbligazioni bancarie subordinate che sono finite nella bufera degli ultimi mesi e che la BCE invece non può comprare. Quindi come diversificare correttamente in questo mercato? La prima domanda che le faccio è però proprio di spiegazione sulle motivazioni situazioni per cui un'azienda emette un'obbligazione di questo tipo. Una società lo fa con lo stesso principio con cui lo fa uno Stato, deve finanziarsi per mandare avanti la sua attività ordinaria? Ovviamente sì. Il problema è chiaramente chi è più solido, quindi può permettersi di emettere un'obbligazione a tassi molto più bassi, perché comunque troverà tanta gente, tanti operatori disposti a comprarla. Chi invece ha qualche problema, ad esempio ha un debito grande oppure ha un debito più contenuto, ma in questo momento è un po' in difficoltà e quindi non fa utili o addirittura fa anche perdite, a questo punto, per fare che qualcuno la compri, è costretta a dare delle cedole più alte, quindi a dare dei rendimenti più alti. Quindi attenzione quando si parla appunto di obbligazioni societarie, in particolar modo di AID, quindi quelle ad alto rendimento, è un'esagerazione, secondo me, è un termine inappropriato parlare di junk bond, ovvero di obbligazioni spazzatura. Questo secondo me è assolutamente inappropriato. Vorrebbe dire parlare di Fiat come spazzatura, Telecom piuttosto che i taccementi a stalli, stiamo parlando di aziende di grande livello, ma nello stesso tempo se danno certi tipi di rendimenti vuol dire che qualche problemino ce l'hanno. Certo, e poi magari ci darà anche qualche indicazione un po' più pratica per capire quanto dobbiamo temere qualora scoprissimo che nel nostro portafoglio appunto di investimento abbiamo sottoscritto, magari non tanto nella piena consapevolezza, un'obbligazione di questo tipo, appunto immaginando proprio di fare una buona diversificazione, scopriamo invece di avere un'obbligazione societaria che ha un rendimento molto alto, e a questo punto, visto le indicazioni che diamo sempre ad alto rendimento corrisponde anche un altrettanto alto rischio, se ci spaventiamo che cosa dobbiamo fare? Teniamo invece i nervi saldi e magari facciamo un po' di manutenzione ordinaria e straordinaria con il nostro consulente finanziario e tempestiamolo di domande. Lei ci ha già introdotto, Busnelli, dei concetti molto importanti che sui quali vale la pena soffermare ancora un po' l'attenzione, perché ci danno proprio la possibilità di spiegare bene come possiamo distinguere le obbligazioni societarie, no? A seconda del grado di rischio. Allora, la prima differenza va fatta fra obbligazioni, io qua utilizzo il gergo inglese ma lo traduciamo contestualmente, investment grade e high yield, e lei appunto proprio ci diceva poco fa che high yield è alto rendimento. L'investment grade invece che cos'è? Invece vuol dire grado investimento, e quindi in realtà si parla di emittenti o comunque di obbligazioni con un alto merito creditizio, quindi con una certa che hanno una certa solidità. Quindi per semplicità, per il risparmiatore di solito si va a guardare il rating, cioè la valutazione data da appunto da alcune società di valutazione, società di rating, che la distinzione sta: l'investment grade sono obbligazioni che hanno, o emittenti che hanno un rating che va dalla AAA, AA, una A, BBB fino alla BBB meno. A yield, alto rendimento, sono quelli sotto la BBB, quindi BB, una B, CCC, CC, una C. La D vuol dire che l'emittente è fallito. Certo. Investment grade comunque è elevato merito di credito. Esatto. Tra l'altro, sempre ritornando sui pezzi molto chiari di questa mattina del Sole 24 Ore, Andrea Franceschi spiega proprio come la Banca Centrale Europea deve acquistare titoli societari che rispettino una serie di requisiti. Il primo è proprio l'elevato merito di credito, e quindi la società che ha emesso il debito, che la BCE può comprare, deve avere un rating investment grade sopra la tripla B da almeno una delle quattro agenzie di rating che conosciamo: Moody's, Standard & Poor's, Fitch e DBRS. Quindi, Busnelli, mi sembra anche abbastanza scontato, se la BCE compra un'obbligazione investment grade e sicura, mi pare abbastanza chiaro che è la naturale strada che deve percorrere anche un piccolo risparmiatore. Perché dovrebbe avventurarsi nel terreno degli high yield, alto rendimento, quindi titoli un po' più rischiosi? Assolutamente sì, però il problema è che l'investment grade ormai, esattamente come i titoli di Stato, non rendono più nulla. Sono arrivati a prezzi così, e beh, anche grazie a queste operazioni fatte dalla BCE, quegli stessi emittenti di cui che avete nominato ormai hanno rendimenti poco superiori allo 0%. Quindi paragonati ad un titolo di Stato, per esempio, sono sullo stesso piano addirittura? Addirittura un esempio che mi viene è: tre settimane fa BMW ha emesso un'obbligazione a 0,18%. Quindi siamo sulla durata? Che durata? Sì, beh, le durate possono andare dai 2 anni, 3 anni, 5 anni, non è, ma in realtà comunque il rendimento è comunque inferiore all'1% ormai per quel tipo di obbligazioni. Attenzione poi un'altra cosa: Ci potrebbero anche essere obbligazioni, mi viene l'esempio di Fiat, che dà sì un'accesa del 6 o 7%, ma il problema è che adesso se tu vai ad acquistarla l'obbligazione ha un prezzo di 116, 117, 118, quindi il rendimento vero, che si chiama in termini tecnici si chiama rendimento effettivo a scadenza, cioè quello che davvero rende quell'obbligazione tenendolo fino a scadenza, è inferiore al 2%, anche su obbligazioni come Fiat stiamo parlando di un... Ecco, insomma, se vogliamo far fruttare un po' di più il nostro portafoglio dobbiamo andare sulle high yield, l'alto rendimento. Allora vedremo qual è la modalità migliore per farlo con Alessandro Busnelli. Adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede traffico sulle strade e sulle autostrade. A proposito, vogliamo ricordare che domani ti stava venendo la stessa cosa, noi saremo a Torino. In realtà non volevo precisare ancora una cosa sulle obbligazioni, ma ricordiamolo, così vengono a trovarci, perché così venite a trovarci anche perché mi dicono che la postazione sia spettacolare, abbiamo un truck, attenzione. E poi ci siamo noi. Ecco, a rendere tutto più luminoso anche se parliamo di obbligazioni societarie. A andiamo! Cuore e denari. Una monetina pure a te, così fanno tre. A proposito di monetine, Alessandro Busnelli, il nostro consulente finanziario indipendente, ospite questa mattina di Investire Informati, con il quale stiamo cercando di conoscere qualcosa in più del mondo piuttosto complicato delle obbligazioni societarie che sono al centro di questa grande operazione della Banca Centrale Europea. Dicevo, a proposito di monetine, corrisponde al vero che tutte le obbligazioni societarie abbiano un taglio di investimento molto alto e che non sia proprio alla portata anche di un piccolo risparmiatore? Ma allora, diciamo che la maggior parte sì, e qui devo dire che effettivamente emittenti come Fiat, come Telecom, così di solito stanno su tagli di 50.000 se non 100.000 euro, quindi diciamo che sono adatti per portafogli di un certo livello. Un pochino più impegnativo. E anzi, addirittura possiamo aggiungere un'altra cosa, per chi avesse la fortuna di avere patrimoni di questo tipo, ci sono addirittura delle obbligazioni societarie che vengono definite over the counter, ovvero fuori mercato. Fuori mercato, sì. Fuori dai mercati regolamentati, sì. Esatto, ma attenzione, fuori dai mercati regolamentati per i retail, il che non vuol dire che non sono quotate. Sono quotate su mercati come Francoforte, Berlino, Lussemburgo, oppure l'Extra Mot Pro, che è il mercato delle obbligazioni per i professionisti di Borsa Italiana, che però è destinato solo per i professionisti oppure per le banche. Quindi che cosa vuol dire? Che se il risparmiatore che ha un certo tipo di capitale, comunque attraverso un consulente e poi attraverso la banca, riesce comunque ad acquistarle questi tipi di obbligazioni. E lì la realtà dei fatti è che lì ci sono ancora delle gran belle occasioni, perché ci sono obbligazioni che rendono molto bene e anche di emittenti di un certo livello. Detto questo, purtroppo non è per tutti non hanno a disposizione un certo tipo di patrimonio, ci sono fortunatamente anche tagli da 1.000 euro, sono molto meno ma ci sono. Oppure ci sono i fondi di investimento o gli ETF che puntano su queste obbligazioni, che non solo ci danno l'opportunità di investire in questo mercato ma di fare anche un'adeguata diversificazione e quindi proteggerci in questo senso, Busnelli. Assolutamente sì, ci sono fondi ETF, qui poi bisogna sempre stare attenti se un fondo, visto che il fondo costa molto di più di un ETF, se effettivamente il gestore del fondo ha dimostrato di valere questo costo, cioè se ha fatto effettivamente meglio di un ETF che è un fondo passivo, allora a questo punto sono disposto a pagare la sua commissione, altrimenti meglio un ETF. Sicuramente il vantaggio di fondi ETF è l'estrema diversificazione, perché è come se io stessi facendo un portafoglio fatto di più di 100 titoli. D'altra parte, fondi ed ETF non ti danno nessuna certezza di rendimento, tu devi vedere poi se il valore di quel fondo alla fine dell'anno, alla fine di 2 anni, 3 anni sarà salito. Invece se io mi costruisco da solo un portafoglio fatto di tante obbligazioni, nel momento stesso che io vado a sceglierle so che portandole anche a scadenza, comunque anche vedendole prima, ma comunque portandole a scadenza, io so quale rendimento avrò nel giro dei prossimi 5 anni. Mi spiego: se io in questo momento faccio un portafoglio fatto con 5 obbligazioni, tutte queste 5 obbligazioni scadono nel 2021, quindi tra 5 anni, e tutte queste obbligazioni hanno un rendimento del 5%, una cedola del 5% e valgono 98, io so già adesso che questo portafoglio fondamentalmente mi renderà 5.5 punti, perché so che prenderò la cedola del 5% in più il prezzo che da 98 andrà a 100. Quindi senta, qual è in questo campo la regola aurea della diversificazione? Cercare di avere una diversificazione appunto anche dal punto di vista delle scadenze temporali delle obbligazioni? Sì, cioè il messaggio anche quello, anche quello. Io, soprattutto però la cosa fondamentale, visto che comunque stiamo cercando un certo tipo di rendimento e visto che il mercato non ci regala nulla, quindi vuol dire che il rendimento è legato comunque anche a un po' di rischio, la cosa fondamentale è mettere al massimo su ogni prodotto, al massimo su ogni titolo il 5% del portafoglio, ecco. Ancora meglio se fosse il 3% o ancora meglio ancora sotto. Perché? Semplicemente perché se nella disgraziata ipotesi che uno di queste, una di queste obbligazioni fallisse, alla fine viene bilanciata dalla cedola del rendimento delle altre obbligazioni. Chiarissimo. Senta, allora, immaginando di avere un po' di liquidità disponibile, sempre fermi restando i punti forti dei nostri, delle nostre raccomandazioni, investire per obiettivi di vita, non perché si vuole prendere contatto con un consulente che ci dia la ricetta magica per farci diventare ricchi improvvisamente, non vale più la regola di cercare il prodotto più remunerativo in assoluto, anche perché adesso veramente questa è una caccia al tesoro che non so quanti risultati ci possa portare. Immaginiamo appunto, fatti salvi questi principi, Busnelli, avendo un po' di liquidità a disposizione, perché magari, non lo so, abbiamo di fronte a noi un lavoratore che è andato in pensione e ha un po' quella liquidità che deriva dalla liquidazione, appunto dal trattamento di fine rapporto che arriva dalla fine del suo percorso professionale. Immaginando appunto di voler collocare un pochino di questi soldini appunto anche in obbligazioni societarie, ci dica i tre passi sicuri da fare, da compiere per non sbagliare mossa. Allora, prima di tutto ripetiamola per l'ennesima volta, diversificazione massima, quindi anche su un portafoglio, per dire, fatto di, se il portafoglio è 100, io metterei al massimo 3.000 euro, 5.000 euro su ogni titolo, prima cosa. Seconda cosa, più vado su cose che hanno un certo tipo di rendimento, quindi hanno anche un certo grado di rischio, meglio affidarsi, farsi seguire anche da un professionista che ti può seguire meglio e ti può consigliare su quali emittenti magari evitare, o comunque ti può tenere comunque aggiornato e quindi magari quando esce qualche notizia ti dice magari usciamo subito da quell'emittente. Terza cosa, appunto, allora lì poi se vogliamo, il solito discorso, se vogliamo più rendimento dobbiamo andare su quei settori che sono magari più chiacchierati. Ad esempio, 3 anni fa le occasioni dove erano sul settore delle auto, perché comunque non vendevano auto, quindi c'era un po' di paura sulle auto e quindi alla fine... Anche il caso Volkswagen ha poi rimovimentato di nuovo un bel po' il comparto. Sì, ma in realtà poco, se noi pensiamo che 3 anni fa si compravano delle obbligazioni Fiat, Renault, Peugeot a 92-93 con cedo del 6%, voleva dire avere rendimenti dell'8%, e adesso ti ritrovavi quelle stesse obbligazioni a 115, certo, dopo quindi. Che avevi preso per 3 anni anche il 6% di cedola. Quindi stiamo parlando di cose di questo tipo. In questo momento, ad esempio, le occasioni sono su quei settori più chiacchierati, quali sono materie prime, petrolifere in particolare, e quelli finanziari, le subordinate. I quindi, settori più chiacchierati, mi è piaciuta. Busnelli, è vero. Anche allora, a Vandera qualche volta, direi, però effettivamente... Esatto. Senta, io ho 30 secondi di tempo, gliene posso dare solo 20. Sull'obbligazione subordinata bancaria, lei che idea ha? Cioè, proprio le do il temone fino a... 10 allora, secondi. L'obbligazione subordinata bancaria e viene fondamentalmente è stata, come si può dire... Busnelli, non ce la possiamo fare, rimarremo con questo mistero, magari la richiamo per un'altra puntata, perché sente che abbiamo la sigletta, purtroppo. So che però per voi professionisti, diciamo, sono delle occasioni di investimento. Esatto, ecco. Sono state demonizzate. Grazie. Media, ma in realtà sono delle occasioni. Grazie, venite con noi domani a Torino, vi aspettiamo al Parco del Valentino. Esatto, nel saremo track lì. Di Radio 24, buona giornata a tutti.